provare, continua, che domani mattina rompe il coglione a provare. Brutto coglione! Tocca a lei, questo è il numero di questo bastardo, rotto in culo. Aspetta, domani mattina mi diverto io col telefono, alla madre. Già stamattina gli ho detto vaffanculo. E lei ha detto, maleducato! Lì è passata su 20, grazie, io a 20, là. E tu statene qua, capito? Rotto in culo, frocio, figlio di puttana!